Sono le 21 del 29 dicembre del 2023, inizia prove tecniche di trasmissione come ogni mercoledì sera sino alle 22:30 circa. Sito internet per ascoltarci via web, cosa che già stanno facendo in molti a quanto leggo, è www.ondarossa.info. Sul sito stesso si possono trovare le varie modalità di adesione per quanto riguarda la nostra sottoscrizione, quindi bonifico, carta di credito, eccetera, eccetera. Ricordo anche che da qualche giorno si può trovare qui in radio la nuova Schercheranda del 2024, l'agenda contro il carcere, una delle autoproduzioni più famose di Radio Onda Rossa ormai da molti anni. Saluto Valerio Michetti, Grazio Obliqua, Loriana Panico a Taranto, Tiziano Farinacci di Pi Greco, Cecilia Miradoli di Pindar, Maia in Umbria, a Cortina d'Ampezzo Tabula Rasa, Anna qui a Roma, e poi un saluto a Barbara Cariti, a Venusia Stramonio, Mariano, Lucia Cagliazza in arte Lupsi, Massimo che sta a Latina. Saluto anche Antonio Zoviet di Omicidio. Abbiamo Marco Mascia di Progetto Sonoro dalla Sardegna. Un saluto anche a Sara Capo Fontana, che abbiamo conosciuto io da passata come progetto No Name, che un'avventura che è finita da poco per darne alla luce un'altra di cui presto parleremo. Saluto Luca Purum Nihil, Francesco Cornello a Bergamo. Un saluto anche a Gianluca Becuzzi, Margherita Montoneri, Like a Wake, storia dell'ambient proprio qui di Roma, anche lui, Giuseppe Berticchio. Anche per questa sera andiamo ad iniziare con Sonologist, il progetto musicale di riferimento di Raffaele Pezzella, che molti di noi conoscono per il suo incessante lavoro di assemblaggio di tante compilation proveniente da ogni parte del mondo attraverso la Nesplay Sounds Group, la 8 Tower, la 0K, eccetera. Tutte label fondate dal buon Raffaele. L'anno scorso invece usciva questo Interdimensional attraverso la Cold Springs, altra celebre storia inglese. Con la Cold Springs Sonologist ha fatto due album. Da questo estraiamo Through Memories and Galaxies. questo drone insistente, cupo, ossessivo, da parte dei Sonologist di Raffaele Pezzella. Da Interdimensional, il penultimo lavoro del 2022, è uscito anche un nuovo album che ci ascolteremo presto, sempre per la Cold Springs. Through Memories and Galaxies, vero e proprio anche questo viaggio nell'interspazio con voci provenienti da una dimensione astrale. Materiale che sovente Raffaele Pezzella immette nei suoi lavori, questi campionamenti appunto a base scientifica e voci provenienti da materiale della NASA e non solo. Buonasera a Noise Cluster con Flavio Derbecante e Arianna Degni Lombardo. Un saluto ad Alessandro Ragazzo che tra qualche minuto proporremo qui in scaletta. Saluto Isetual, Jean-Claude Berthaud in Val d'Aosta. Viene citato Raison d'être, come qualcuno avrà notato, a marzo verranno in tournée anche qui a Roma. Insieme, Brighter Than Now, Raison d'être e Deutsche Nepal, un trittico niente male. A Roma 4 marzo, in Italia ci sono 4 date, se non erro. Ne riparleremo a tempo debito. Noi si va avanti intanto e, come i più attenti sanno, noi di novembre andiamo sempre a ricordare i Coil. Novembre, mese che accomuna nella scomparsa John Balance e Peter Christofferson, anche se in anni diversi. E questa sera andiamo a sentirci due passaggi da The World Ended a Long Time Ago, che esce attraverso la Ici d'ailleurs, un'etichetta francese. Come francesi diciamo, almeno nella fondazione, di questo collettivo. Allora, ci ascolteremo Dark River e Cold Cell. Thank you. Vi siete accorti che il CD ci ha tradito e anche tanto, e quindi usiamo un'altra via e comunque ce la risentiamo da capo, il che non guasta. This Immortal Coil. Thank you. devil from the devil from bellissima questa iniziativa di Stéphane Grégoire di formare This Immortal Coil, vero e proprio gruppo nato per coverizzare i Coil stessi. Un omaggio, diciamo, enorme svolto da questo artista, che ha chiamato a raccolta una serie di altri musicisti. In questa seconda operazione riguardante i Coil, dal nome The World Ended a Long Time Ago. Nel caso di Dark River, il collettivo era tutto italiano, con Massimo Pupillo, Mattia Cipolli, Elisa Bognetti, che è una suonatrice di corno, Stefano Michelotti, Francesco Bolognini. Infatti era una versione molto cameristica, diciamo, di Dark River. Mentre David Chalmin, Christy Notte, Matthew Gabry hanno dato lustro a Cold Cell, altro indimenticato capolavoro dei Coil. Ricordo, sempre per omaggiare la scomparsa ormai di molti anni fa di John Balance nel 2004 e Peter Christopherson nel 2010. Allora, andiamo avanti e ce ne andiamo da Michael Gira e i suoi Swans. Da molte settimane ci fa compagnia l'ultimo suo lavoro, un ottimo lavoro, uno dei migliori di questo 2023, si chiama The Beggar. E ultimamente abbiamo messo sotto la lente ad osservazione The Beggar Lover, una lunghissima traccia di 43 minuti che ci siamo ascoltati già in tre parti, e questa sera l'andiamo a concludere. E penso sia stato bello sentirci anche la parte finale di The Beggar Love Tree. Ricordo una lunghissima traccia di 43 minuti che abbiamo diviso in 4 segmenti. Ce la siamo goduta tutta. Un andamento quasi da rock psichedelico, quasi durziana questa ultima parte di questa traccia con la splendida voce di Michael Gira. Una delle più belle composizioni ad opera degli Swans, ma d'altronde sono rari i momenti, diciamo, di caduta di stile di questo progetto newyorkese. Tornato di nuovo in attività, ricordiamo, nel 2010. Anche questa, The Memories, ce l'ascolteremo per concludere il tutto mercoledì prossimo. La bellissima voce di Gianluca Pecuzzi ci introduce in Black Mantra, suo ultimo lavoro. Sperando che il lettore non ci tradisca, The Evening Star, Gianluca Pecuzzi da Black Mantra. È stata la risposta decisiva, ci vuole un atto radicale e quindi la ricominciamo da capo. Evening Star, mi scuso con Pecuzzi, ma stasera non è aria, il lettore non vuole. Evening Star, Gianluca Pecuzzi. allora, tra una ribellione delle macchine e l'altra, qui in radio, ci siamo ascoltati, bene o male, a più voci, devo dire, a un certo punto, il Gianluca Becuzzi. E la traccia che ci siamo ascoltati era soprattutto Evening Stars, estratta da Black Mantra, questa sua ultima fatica molto, come al solito, esoterica, sciamanica, tribale, non disdegnando ovviamente le consuete puntate dell'ultima carriera, dell'ultima parte della carriera di Gianluca Becuzzi, riservata al doom metal. Un doppio CD che pian pianino ci ascolteremo praticamente per intero. Negli ultimi mesi ormai ci fa compagnia Becuzzi con tutti gli album usciti quest'anno. Questo è quello precedente, We Can Be Everywhere, ricordiamo. Saluto Gianluca Becuzzi e Maria all'ascolto. Altro toscano doc e fondamentale per la scena sperimentale italiana è Daniele Ciullini. Tornato in attività da qualche anno e noi lo andremo ad apprezzare con Cosmetics for Mannequins, un vero esempio di magistrale collage sonoro. Un album di 30 minuti uscito per la Svizzera Lucesia. Outlay with the Thinking, Boxed Ships, e l'ultima traccia 888.